fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, buongiorno a tutti, o come ci piace dire, buonanotte, buonasera o buon pomeriggio, perché se ci seguite sapete che le nostre interviste vanno anche in replica, quindi potrebbe essere qualsiasi ora del giorno in questo momento. Buonasera da Master Nick, quello che non cambia è che è sabato 10 novembre del 2018, 1:16 del mattino, e questo è lo spazio per raccontarsi e per raccontare. I primi due protagonisti di questo sabato sono qui con noi negli studi, e adesso li intervisteremo, perché come sapete ci piace festeggiare, ci piace festeggiare tutto, e soprattutto in questo periodo è il momento delle grandi rimpatriate, delle cene di classe, e non so se abbiamo gli organizzatori qui, ma sicuramente due rappresentanti di un bel gruppo che arriva da Mozzanica, giusto? Sì, esatto. Confermate. Allora, per galanteria mi perdonerai, partiamo dalla ragazza, benvenuta. Grazie. Come ti chiami? Sono Valentina. Ok, Valentina, benvenuta a te. Vabbè, Mozzanica l'abbiamo detto, tu? Io Nicola, Nico. Sempre anch'io da Mozzanica. Perfetto, quello che conta e che ancora non abbiamo detto è cosa festeggiate. Io ho già anticipato qualcosa, quindi la coscrizione 1993, quindi il 25esimo. Oh, 25 anni, che anzi lo faccio dire a voi, che età è 25 anni? È l'età in cui si entra finalmente nel mondo degli adulti. Io in realtà ne ho ancora 24, forse anche tu, Nicola. No, io ho 7 ottobre, quindi ho 25. 7 ottobre, ok, 25. Sono proprio la più piccolina della classe, perché sì. Sono il 29 di dicembre. Ecco, però... brava, ma hai anticipato la domanda. Ci piace ogni tanto fare questo giochino, però mi hai già rovinato il finale, nel senso che volevo capire il primo e l'ultimo della vostra annata. E l'ultimo mi sa che l'abbiamo capito. Sono io, perché sì, batterti il 29 dicembre è dura, è molto dura. Il primo è Davide. È fuori. Davide, ok. Qua fuori a ballare. Che quando? Al 20. 22 di gennaio. 22 gennaio, ok, quindi insomma al principio, ma neanche così tanto. Io ho un'amica il 2 gennaio, quindi anche lei imbattibile, assolutamente imbattibile. Quindi dicevo, 25 anni, l'età secondo te in cui si comincia a diventare adulti, secondo te, Nicola? Sì, anche se stasera mi sa che io personalmente non ti senti adulto, sì. Non ti senti 25enne? No, zero. Ma non è i 30 l'età in cui si diventa adulti, no, già 25. Diciamo che 25 è l'età in cui se stai studiando, bene o male, finisci il tuo percorso di studi. Devi iniziare a capire, almeno trovare una strada, per capire cosa vuoi fare, da grande, certo, come si dice. Per la famiglia, queste cose c'è ancora tempo. Sì, vabbè, quello non ci si pensa. No, perché è interessante, cioè è anche interessante capire come ci si sente, ma è più il peso del numero, cioè il fatto che una volta arrivati a 25 cominci a pensare, cavolo, forse è meglio che cresca, o davvero si innesca qualcosa? Allora, perché sai che poi c'è il rischio che diventi un po' una convenzione, no? Cioè ho 25 anni e adesso devo cominciare a diventare grande. Cioè non è che lo dice la carta d'identità, lo dicono le vicende della vita. Io essendo appunto di fine anno, per ora ho sempre preferito dire, per esempio, se ero nell'anno dei 24, dicevo 24 anche se era già luglio, se ero nell'anno dei 23 pure. Quest'anno, ok, adesso dico che ne ho già 25, anche se li compio a dicembre, ma da gennaio dell'anno prossimo io penso che continuerò a dire 25 fino a quando ne compio. Fino alla fine. E quindi lo sentite, cioè il peso, il cambiamento, sentite il cambiamento della cosa? Sì. Cioè è l'età in cui vorrei dire stop, adesso ci fermiamo qui per qualche anno e poi procediamo quando sono pronta ad avere famiglia. No, bene, quindi si cominciano anche a fare dei progetti. A proposito di progetti di futuro e di vita, cosa comporta la vostra di vita? Cioè cosa fate? Lavorate? Studiate? Sì, io lavoro. E Vai, dove? Dici un po'. No, io ho una ditta a casa mia di trasporto, di autoservizi e di mio papà, e io sono socio, quindi lavoro anche io lì. Trasporti e scusa, autoservizi? Pullman. Ah, no, noleggio tipo, no? Sì. Ah, ok. Solo pullman trattate? Pullman e pullmini, però più prevalentemente più sui pullman, sì. Però non noleggio privato, noleggio nel senso... con conducente. No, però non dico non limousine, no, taxi, cosa del genere. Solo pullman. Sì, pullman, sì. E il tuo ruolo è, a parte, vabbè, essere socio, ma praticamente... Io anche autista. Ah, anche autista, quindi sul campo. Sì, campo. Ti piace? Sì. Non è un lavoro facile, perché rischia di essere molto facilmente noioso. Cioè che dopo un po' far la stessa cosa, magari. Più che altro anche con la gente che c'hai su, devi essere abbastanza comprensivo e spesso anche quando non sei... Forse anche chiudere le orecchie più del dovuto. Cioè proprio tapparle. Tante volte sì. sì. Perché hai a che fare con ogni tipo di clientela, dai bambini agli adulti. E ma la tua tante volte vorresti, sì, e beh, certo, che il viaggio finisse prima, accorciare la strada, ecco. La tua permanenza media più o meno sull'autobus, insomma, guidando, eh? Dipende. Sì, beh, ma ti capita di dormire fuori, no? Sì, anche. Anche dormire io fuori. Io arrivo da una notte fuori. Arrivo da due giorni via a Padova e Bologna, quindi. Beh, immagino sia comunque pagato il pernottamento. Sì. Okay. E sono arrivato direttamente qua a fare la classe, quindi. Bravo, bravissimo, stoico. E non so se come sui camion c'è anche lei la regola delle 9 ore? Assolutamente. Ah, ok, quindi come fosse un camion? Hai le tue ore di guida? Sì. Quando finisci di guidare hai 9 ore di riposo ogni giorno. Ok. Devi, nel momento in cui togli la scheda di sera, hai 9 ore di riposo prima di rimetterla e iniziare la giornata. Bello. Il posto più lontano in cui sei andato? O anche il posto più bello che hai visto? Scegli tu. Austria, Francia. Sono andato. Porca. Sì, Croazia, Bosnia, però l'Italia. Beh, anche all'estero, quindi. Sì, anche sì, all'estero. Non tantissimo per adesso, però, perché io ho 2 anni e mezzo che sono. E c'è qualche problema alla dogana? Cioè, nel senso, come documenti. Quando vai in Croazia e Bosnia sono abbastanza. Ma li controllano uno per uno? O li raccogli prima? O li raccogli prima? Raccogli prima, okay. Le identità, però se c'han voglia e vogliono farti storie, salgono e controllano tutto. Ho capito. Cavolo. Sì, devi stare attento e riportarli indietro. La tua intenzione è continuare a farlo o cambiare anche ruolo? Per ora vado bene. Poi io, meno male, se non sono in giro con il pullman, c'ho sempre. C'ho anche il servizio di scuola bus, quindi di giorno sono sempre in giro. Insomma, anche se non sono sedere sul sedile, come si dice, senza problemi. Bravo. È cresciuta la pancia, purtroppo. È dura, lì è dura poi, ci diventa troppo comodi. Però ci sono anche la tecnologia, comunque sia, quello che succede. Cioè, ma ci sono state belle evoluzioni anche da quel punto di vista. Valentina, invece, tu che fai di bello? Io sono laureata in farmacia, mi sono laureata a maggio. Porca, bello, interessante. Da qualche giorno lavoro in un'azienda farmaceutica a Milano, quindi diciamo che sono proprio all'inizio della mia carriera. Beh, ti sei trasferita, immagino. No, io sono appunto vicino alla stazione di Treviglio, quindi sono piuttosto comoda. Ah, ok. Però diciamo che un'oretta e mezza ci vuole per arrivare all'ufficio, sì, però. E laboratorio o ufficio? No, ufficio. Ah, ufficio. La parte regolatoria, quindi documentazioni per mettere i farmaci sul commercio. Bello. È sempre stato il tuo sogno, la tua idea? Allora, quando mi sono iscritta a farmacia pensavo di andare a lavorare in una farmacia. Poi in realtà, proseguendo negli anni, mi è venuto questo pallino di provare a fare un po' di carriera in azienda e quindi diciamo che adesso sono soddisfatta di questa opportunità che mi è stata data. Bene. Vediamo. L'importante è sempre essere contenti del proprio percorso, del proprio ruolo. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio di aver fatto 4 chiacchiere con noi. Vi lascio andare, o meglio, tornare in pista, anche perché lui c'ha una pancia da tirare giù e quindi deve muoversi. Ma non basta solo il ballo. No, niente. Vabbè, insomma, tu comincia. Il problema è che gioco anche a calcio, ma non mi. Non è abbastanza. Ma insomma, tu provaci, non mollare, sii stoico. E in bocca al lupo anche per la tua bellissima carriera. Lo dico sempre, anche se non è bello, speriamo di avere pochissimo bisogno di te, nel senso che vuol dire che stiamo male, quindi speriamo di come dire, di doverti contattare il meno possibile. Però poi il tuo ruolo è il problema, che il fidanzato, la famiglia, eccetera eccetera. Guarda, Vale, scusa, c'ho un dolorino qui, ma tipo, secondo te cosa potrebbe succedere, vero? Cose più improbabili. Succede, vero? Risposta, perché loro pretendono che tu sappia. Cioè, sì, diciamo che vicino alla Valentina l'ipocondria si amplifica al 2000%. Beh, però tu sei sempre gentile e disponibile. Bravissima, lui. Sorridi. Tu sorridi sempre e dai consigli, che sono tutti contenti. Vero o falso? Anche perché c'è della responsabilità, perché le tue parole sono, non dico Bibbia, ma quasi. No, è vero, la sfida veramente. Quindi devi anche. Cioè, sembra banale, ma devi anche stare attenta a quello che dici, perché poi un attimo. Però mi avevi detto. E non mi è passato nulla. Attenzione, quindi però la vedo tagliata. Bravi ragazzi, bravi ancora e grazie per essere passati da noi. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.